buonasera, ma soprattutto mandi a tutti di cuore. E ringrazio l'associazione Fogolar Furlan, voi tutti che siete qui presenti, Licio Mauro che ormai è un nostro grande amico, Renato Lirussi che è qui in sala con noi e con il quale abbiamo iniziato questo percorso. Lo voglio ricordare perché era il 2006 e questa era una piccola biblioteca, come lo è ancora, perché non è che gli spazi si dilatano magicamente. Però insomma nel frattempo abbiamo fatto un po' di strada e soprattutto questo anche grazie al vostro, alla vostra fiducia, al vostro contributo, perché è un'associazione forte come il Fogolar Furlan che nel mondo si dirama ed ha un buon tessuto che la tiene unite queste persone, e ci ha dato fiducia e siamo contenti di poter custodire i libri. Sono arrivati a oltre 600 numeri, 600 titoli catalogati e per noi queste ricorrenze, questa occasione annuale o anche più occasioni magari che si presentano di incontrarvi, di incontrarci di nuovo in questa biblioteca sono sempre preziose e le viviamo anche con un calore diverso, diciamo, lasciatemelo dire, anche se ci registrano, perché sono... Sì, è un'occasione di amicizia e di scambio che difficilmente si possono creare in maniera spontanea in alcune istituzioni. Invece con il Fogolar Furlan è stato possibile, abbiamo da subito così avuto la possibilità di fare questi scambi, di darci una mano e negli anni abbiamo potuto anche conoscere e far conoscere sempre di più quella che è la cultura friulana, quelle che sono le tradizioni, ma anche aprirci con curiosità ed interesse anche al mondo ladino che è qui vicino a noi, c'è accanto, lo incontriamo, lo incrociamo ed è sicuramente sempre un'occasione di apertura per tutti quanti, soprattutto per una biblioteca, quello di offrire delle, così, dei passepartout per andare oltre. Ecco, non vorrei dire altro, io ringrazio Licio Mauro perché è veramente attentissimo e ci scambiamo mail, ci offre ogni volta delle occasioni nuove di riflessione, degli spunti, delle occasioni per organizzare delle iniziative e quindi è una partecipazione. A me piace questa idea di biblioteca partecipata dove tutti possono venire e dire guarda, avrei un'idea, secondo me se facciamo una cosa così possiamo andare avanti, fare un percorso e quindi è di grande aiuto anche lì c'è per noi. Grazie. Grazie Valeria. Grazie a tutti. Ringraziamo la direttrice per sempre per la squisita ospitalità e per questa collaborazione che spero continui. Siamo ben un bel numero, di solito siamo sempre molto di meno, ma sono ben contento perché ci sono anche delle signore che la prima volta che vengono qui si frequentano il Fogolare, sono contento. Non sarà una presentazione tecnica, d'altronde l'argomento sono i libri che portiamo qui, libri però diciamo che hanno una loro robustezza, sono i nostri libri friulani, sono i nostri libri che raccogliamo dal Friuli, raccogliamo da dei privati che ce li hanno regalati e che adesso presenterò. Ovvio che per portare i libri non potevo essere banale venire qua con delle scatole di cartone. Allora, visto che siamo friulani, ho detto ma ci vuole il J per portare il cesto, lo dico in italiano per chi non, il J per portare i libri, il J diciamo uno strumento di lavoro un po' della pianura, ecco, dove nel J si mette di tutto. Oggi ci abbiamo messo i libri, ma le donne ci mettevano la biancheria per andare a lavare, ma soprattutto era uno strumento di misura, no? Quanto costa l'ullinsule? 2 jays di Blava, ecco, cioè uno strumento anche di misura per la pianura. Però non potevo neanche non ricordarmi della Carnia. Allora la Carnia, i libri, la Cosse, ecco, la Cosse o il Cos, ma no, il vocabolario dice la Cosse, ecco, che poi sarebbe lo strumento di lavoro soprattutto delle donne carniche. Ricordiamo le portatrici carniche della prima guerra mondiale che hanno sostenuto la battaglia portando rifornimenti che hanno ricevuto anche la medaglia d'oro, valor militare. Ecco, è un piccolo inciso questo, ma comunque questo è uno strumento. Provengono dalla colazione della nostra sede di Rossi. L'altro giorno mi ha detto: vienitele a prendere, che non so più dove metterle. Fortuna che la casa me l'hanno, è grande, così mi stanno e le porto volentieri in giro per farle vedere. Ma adesso proseguiamo con la nostra presentazione. Tanto un saluto Furlani e chiande filologiche. Potete seguire le parole sia in italiano che in... Ci voleva ogni tanto un po' di... Ecco, piccolo omaggio alle nostre, questo è il canto della filologica e il saluto, diciamo, il Friuli. Avrei preferito quasi quasi il Furlan, però non l'ho trovato e nella mia raccolta non c'è. Comunque, passiamo all'argomento di adesso, la presentazione del fondo bibliografico dell'associazione Il Focolar Furlan di Bolzano, che questo il nome esatto come è registrato dagli atti notarili. Questo conoscete bene, è l'invito che è stato mandato a tutti. Questo ponte del Mandi, questo collegamento fra l'Alto Adige e il Friuli, come vedete è un po' il leitmotiv che già abbiamo ripreso dal 2009, un po', perché in fin dei conti siamo vicini al Friuli, 2-3 ore di strada ci siamo, però a volte siamo anche distanti, però ricordiamoci che c'è un legame molto stretto fra le due regioni, fra le due culture e tutto quanto. Ecco una piccola storia, un breve accenno sul fondo bibliografico. Quando nel 2006, dopo aver lasciato la sede via Vittorio Veneto, ora si pone il problema di dove mettere tutto questo patrimonio di libri che si raccoglie e regalano, come dicevo prima. E allora è stato portato qui alla biblioteca, ma vi ha già detto tutto la direttrice. Poi nel 2009 abbiamo fatto qui una piccola cerimonia, una piccola presentazione, dove abbiamo approfittato anche per consegnare il diploma di presidente onorario Li Rossi, che aveva voluto questa iniziativa. E stasera, dopo 5 anni, sono pronti a consegnare un altro. Questo è solo una parte, ovvio, no? Perché avrei avuto bisogno di più Jays e di più Cossis per poter portare tutti i libri. Comunque, nei prossimi giorni poi ci metteremo d'accordo come portare. Tanto lasciamo passare le vacanze pasquali, no? I libri che sono custoditi qui è facile andare a consultarli. Di solito uno dice: ma come? Per chi ha internet, però. Sapete bene com'è il problema, no? Che se non hai internet non riesci. Comunque basta andare sul sito della biblioteca, cliccare e lì si trova il... Adesso se riesco già lo clicco, ma forse penso che potremo anche lasciare questo qui, che ognuno lo faccia su, quando si clicca sull'home page viene fuori il catalogo, e allora del catalogo c'è anche il fondo del Focolar Furlan e si può andare su quello, oppure su fondi c'è il fondo del Focolar Furlan assieme agli altri, e lì c'è proprio l'elenco di tutte le opere, che poi aumenterà questo elenco man mano che porteremo queste opere qui. Ecco, sono su mouse, adesso dovrei uscire dalla presentazione perché come al solito ho fatto la stupidaggine di prima, vero? No, Maranzo. Eccoci qua, visto? Sì, queste trappole qui vanno bene, però quando non ci ricordiamo. Quando non vanno male. Ecco, vediamo un po' alcune opere, quelle che ho portato qui. Sono state, come dicevo, regalate dalla provincia di Udine, dal Friuli del Mondo, dall'Arlef, dalla Filologica Friulana, da tanti enti. Poi Renato Lirossi l'altro giorno mi ha riempito di libri ulteriormente. Poi c'è stata anche le signore Eloise Eleonora Mansutti, che è figlia del compianto Moreno Mansutti, che voi conoscete, che è stato anche direttore delle poste qui a Bolzano, che mi ha detto: guarda, abbiamo tutti questi libri, cosa ne facciamo? Dammi caio, vero signora? E subito, volentieri, più che volentieri, perché sono veramente molto interessanti, e quindi troveranno una giusta collocazione. Stavano bene a casa vostra, ma si sa no, perché ma papà li ha lasciati e li ha donati, ha voluto bene. Ecco, allora gli rendiamo onore al papà stasera, ecco. Bene, ecco, vediamo un po' qual è uno dei libri più, diciamo, un po' più significativi, il Friuli una patria, che ce l'ha regalato il presidente della provincia di Udine, e anche il libricino Friuli una patria. Se vi ricordate, 2 anni fa, nel 2011, abbiamo fatto una mostra sul Friuli una patria al centro Trevi, mostra che è stata visitata da diverse persone, la collocazione andava anche bene, ma era una mostra ben importante con 33 pannelli. Ed era corredata anche da certi libri. I libri adesso arriveranno qui a quella biblioteca. Invece quel piccolino lì, come si chiama, quello più piccolo, che lo tiro fuori qua, ecco lì, vabbè, non è un problema. Questo qui, chi ce l'ha, tanti soci l'abbiamo scritto quella volta, chi non ce l'ha può prendere una copia qui, che ne abbiamo parecchi, è un condensato dell'altro. Poi invece c'è un'altra opera molto importante, molto, diciamo, seguita qui in Alto Adige, che è il dizionario italiano friulano, friulano italiano, che è già stato presentato alcune volte anche in occasione dell'aperitif ladin, della consulta ladina, e devo dire che il dottor, adesso mi ricordo, di Bressanone, che si occupa, le ha chieste due copie e le ho portate su io dal Friuli, perché gli serve appunto per cercare dei termini uguali fra il ladino e la genesi di tanti termini fra il ladino e il friulano. Allora, piuttosto che andare a cercarlo in Francia o da altre parti dove sono altre lingue latine, abbiamo questo riconsiglio, ho detto che effettivamente va molto bene, lo stanno usando parecchio, e già molti mi hanno chiesto se sarà qui in biblioteca, perché c'è qualcuno interessato che studia lì dei ladini, che è interessato a questo. Infatti questo oggi rimane qua, non lo porto più in giro, perché lo portavo sempre in giro, perché poi è pesante, ecco. Altri libri che ci sono La Panarie, che è una rivista trimestrale di, come chiamarlo, di cose friulane, ecco, storia friulana, attualità, tutto quanto, una rivista che ogni trimestre ci arriva. Adesso sono in difficoltà economiche, anche loro ci avevano chiesto di abbonarsi più o meno, ma effettivamente è un altro di quei legami con la madre patria, cioè dove c'hai la sensazione di quel che succede di cultura. Abbiamo parecchie raccolte di queste panarie, ne abbiamo parecchie in giro, e adesso anche questa verrà qui, quindi se qualcuno magari ha voglia di sfogliarla, anche degli anni passati, degli anni andanti, insomma. Altri libri interessanti sono sulla storia del Friuli, ce n'è più di uno. Io oggi ho presentato qui La storia del Friuli di Pio Paschini, un motivo c'è, un po' perché questo qui sta, questo non lo do, perché devo leggerlo. Siccome ho promesso alle Rosi che lo leggevo, sono arrivato a 100 pagine, ne ha solo 921, quindi buona lettura, dite voi. Ma anche perché Pio Paschini, io non sapevo, io frequentavo la scuola Tabedia Pio Paschini di Martignaco e non sapevo chi era sto Pio Paschini. Ma, sì. E poi ho saputo che un sacerdote friulano visto, vissuto a cavallo tra l'800 e il 900, che è appunto uno storico molto quotato, molto ligio, scrive, oddio non è la scrittura di adesso, non è Montanelli, però ed è diciamo uno dei punti di riferimento cardine. Ma vicino abbiamo la storia del Friuli in quattro lingue, la nostra storia, e poi il tedesco e anche l'inglese. E questa qui è un libro che hanno tratto da una predica di Precheco Pracereani, Don Giuseppe Pracereani, che è una figura storica vicina a noi, perché nel 70, se chi si ricorda, ha fondato il movimento Friuli, cioè che era una, oppure è stato l'ispiratore del movimento Friuli, che poi ha perso le strade, si è perso nel tempo, ma non parliamo di politica. Comunque uno che ha buttato il seme dell'orgoglio friulano nell'ambito della cultura friulana e ha scritto questa storia. È stata una predica, lui ha predicato e ha raccontato la storia del Friuli, non dico a modo suo perché lui è molto documentato, ma con le sue, come si può dire, con le sue osservazioni anche, e puntando anche sulla chiesa d'Aquileia molto, che dice, ecco. E di questo qui è stato raccolto questo testo, tradotto, cioè scritto in friulano e poi tradotto in quattro lingue. Questo è molto interessante, questo libro che è qua. Poi magari quando saremo qui, che faremo altro, date pure uno sguardo se vi interessa, no? Qui. Ecco, l'emigrazione. Ecco, sentiamo un po', seguite un po' che è breve questa, però molto significativa per noi friulani, l'emigrante. E come comincia? Ecco, penso che questa l'ho voluta mettere perché siamo un po' tutti migranti, chi per dovere, chi per scugne, chi perché ha dovuto, come dicevo, ha dovuto esserci perché per dovere, perché la patria l'ha mandato sui confini di questi confini qua, chi perché a casa doveva andare via per cercarsi il lavoro, tutto quanto, sante scugne, quindi siamo tutti emigranti, ogni tanto ricordarlo, soprattutto in questi periodi qua, meglio ricordarlo che anche noi siamo degli emigranti qua e che quindi dobbiamo ricordare in questo momento anche chi è più sfortunato di noi. con la dovuta educazione. Ecco, poi continuiamo. Altri libri, qui ormai vado su un po' sulla Carnia, Terra di Tradizioni, un libro recente di Barbara Bacchetti. Poi c'è un Sherlock Holmes tradotto in italiano, Le avventure di Sherlock Holmes, tradotto in friulano, scusate, tradotto in friulano. Poi delle poesie, Presuntum Viar. Libri più recenti sul friulano lingua viva, cioè proprio col cellulare, gli sms col friulano, ormai in Friuli usa così, ma per fortuna che almeno su quello, che la lingua non si perde. Poi quell'ultimo giorno di maggio, altre poesie, poi ci sono delle pièce teatrali in friulano che sono derivate da dei concorsi, quindi c'è vitalità in Friuli per il friulano, per fortuna. Ecco. Altre pubblicazioni, c'è questo, un film che è stato realizzato 3 anni fa, che parla appunto della guerra con i tedeschi, molto robustino, quindi questo è un DVD, anche perché non ci sono solo libri, anche, ci sono anche dei supporti diversi. Un libro scritto dai bambini, poi un altro libro per i bambini, perché si vuole coltivare l'infanzia con i fumetti, tutto quanto. Un altro film sul Novecento in Friuli, poi Blacks, che questo qui è una, in pratica si impara il friulano, ci sono lezioni di friulano che sono apparse su YouTube per diverso tempo, chi va su YouTube le trova e è stato edito da Rete Friuli del Mondo, sono due autori, un ragazzo e una ragazza, che parlano in friulano e lo spiegano, è più indirizzato magari per i nostri figli, vada. Se qualcuno interessa, e questo qui lasceremo qui due copie, però appena vado in Friuli, che vado a vedervi, vedo un po' se ne hanno altre, casomai le duplichiamo, vediamo di darlo ai soci. Ecco, ma questo è molto interessante perché proprio ispira il friulano, anche questo. Non poteva mancare qualcosa sui mosaici, visto considerato che l'anno scorso abbiamo fatto quella con la in collaborazione con la Consulta Ladina, col sindaco, col dottor Spagnoli, che ha voluto proprio che venisse fatta lì al municipio, abbiamo fatto una mostra sui mosaici, erano 33 pezzi molto, molto interessanti, molto belli, e qui lasciamo un po' qui il dépliant sulla scuola, e poi c'è un libro che parla dei 90 anni di storia della scuola, e poi ci sono anche un DVD, ma ci sono altri libri che porteremo più avanti, quindi sulla scuola mosaicisti, se qualche scuola d'arte interessata. Libri più recenti, ecco qua siamo, l'usor sarebbe del nostro, speravo che arrivasse Renato Slavic, che ha presentato proprio qui, ha presentato un libro di poesie. Renato è un friulano di Villesse che vive da anni qui in Alto Adige, ha la moglie pure friulana, e fa delle ottime poesie, che poi presenta diversi libri, ha raccolto già diversi libri, ed è un po', diciamo, il nostro mentore attuale, senza poi volevo dire. Poi c'è quell'opuscoletto dei Dos Rimutis di Giovanin, che lasciamo qua anche quello, edito proprio dal Focolar del 96 di Giovanni Colleone, che stasera speravo venisse, ma ultimamente insomma devo andare a trovarlo così. E poi qualcosa che c'entra non c'entra con Friuli, ma ce l'ha regalato Carlo Zanella, che è qui presente, che aveva la moglie friulana che purtroppo è mancata, e lui è il nostro socio sempre qui. Anche Carlo, anche il tuo libro va a finire con quelli friulani qua. Ecco, un applauso a Carlo, che ha scritto, visto che c'è qua l'autore, allora che ha avuto questa sensibilità nei confronti del Focolare. Che il Focolare una volta con la televisione, con la RAI, e qui Muzzati, c'era la signora Mansutti, e c'era una volta tanta attività sulla RAI in friulano. Però ci vuole anche una capacità, dietro ci vuole passione, ma i tempi adesso sono... Comunque, cerchiamo di... che quel seme buttato quegli anni scorsi, gli anni 70-80, penso che erano quelli, venga mantenuto quantomeno un pochino vivo e si continui a fare un po' di presentazioni di cultura friulana, cioè almeno una volta l'anno fare dire alla, come si dice, alla comunità di Bolzano, dell'Alto Adige, che noi ci siamo pure noi e facciamo qualcosa, ecco. Poi altri libri, questi che Li Russi mi ha dato l'altro giorno, ci ha dato per la, ecco, come vedete sulla Carnia, qualcosa qui sulla Carnia. Questa, vedete, la corsa, eccola qua, ma qui non è per portare libri, per fare bella figura qui, poi anche più grande di questa. Queste signore sono quelle che la portano in giro, cioè in pratica non c'è carretto, ci sono le gambe, e questo, diciamo, è ribaltabile, ecco, è ribaltabile per le donne carniche, il piano di carico. Altri libri di poesie, TRME, antologie. Poi c'è la poesia italiana, la poesia friulana del Novecento, una raccolta di versi friulani. Poi c'è Jacob De James, che sarebbe un signore che girava per il Friuli e che vendeva, fra le altre cose, anche i cesti, i James. Lui, perché quella è la cosa che si vedeva di più, ma faceva l'ambulante di tante cose e raccontava storie, raccoglieva storie. Allora, quando uno si metteva a raccontare qualche storia, uno diceva, quando magari poi i bicchieri erano anche su di numero, allora lui diceva: ma chi credi essere? Jacob De James che la racconti? Allora sta buono, calmiti, insomma, no? È così. Andiamo avanti. E poi c'è, ecco, questo, la stella di Nadal. Questo qui è proprio una stella di Nadal del 57, avevo 4 anni io quella volta, poi una del 95, l'ultima del 2014, mi ha messo insieme. Stella di Nadal è un periodico annuale, un annuale che viene fuori a Natale ed è edito dalla Vita Cattolica, che sarebbe il giornale diocesano di Udine. Allora tu vedevi che sotto Natale venivano le signore a portarlo, o nelle parrocchie si vendeva soprattutto lì, e so che mia famiglia l'aveva sempre comprato, anche se non c'era gran disponibilità, però insomma stelle di Natale non poteva mancare, poi si comprava una volta l'anno, mentre durante la settimana c'era un po' di La Vita Cattolica che veniva venduta fra le nelle case. C'erano due correnti che venivano nelle case, qualcuno con l'Unità, qualcuno con La Vita Cattolica, se vi ricordate che c'era quella volta, c'erano gli attivisti del Partito Comunista, e poi c'erano gli attivisti proprio subito dopo la guerra. È bella questa, anche questa qui. Andiamo avanti, ecco, qui andiamo sui libri che l'altro giorno a Merano sono andato a prendere la signora Aloisia, che è qui presente, ecco, torno indietro. Ecco qui Moreno Mansutti, che tutti conoscete, i più anziani con cui hanno collaborato. Ho voluto mettere Cur Furlan vicino, proprio il cuore friulano vero. Libri Passonapa al Friuli, che vuol dire pascolare per il Friuli, che questo qui sono i bambini che pascolano le oche piccole. Questo era il compito dei bambini, pascolare i tacchini, le galline, le oche, le anatre, cioè portarle in campagna perché beccassero qualcosa in più di quello che poteva dare, diciamo, la, come si può dire, poteva dare il mangime o il grano turco, insomma, no? Ecco, dopo che avevano beccato anche il paiolo della polenta, no? Che si metteva sempre fuori casa perché con l'acqua dentro che alzasse la crosta che si faceva, e quella lì era destinato proprio agli animali da cortile che era gestiti dalle donne, vero? I pipin sono i bamboletti, i bambole. Il pipin sarebbe il pipino, sarebbe anche il bambino, no? Oppure potrebbe, chi forse è nel senso pipin di piccole cose, o no? Come tradurlo in italiano, pipin? Frammenti, sì, qualcosa, insomma. Ecco, poesie, pipin, frasi dette. Ci sarebbe una quelli che decorano i, vabbè, miniature, una miniatura. Quanti di dire bambini, perché erano i bambini che andavano a pascolare. Sì, quello sì. I bambini. Sì, ma questo non è riferito solo lì, però no. Sì, come l'hanno detto, no, i russi, toccava loro pascolare, quello sì. Ci sono andato anch'io, magari in Frus, è così. È lì che tu hai fatto il bene, sa? Tutto sacramento, tutto bene. Poi c'è il dizionario toponomastico del Friuli, che andiamo già sulle cose più tecniche, la grammatica friulana, che poi questa è del 1922, quindi già negli anni, quindi sì. Poi altri periodici, ad esempio l'agenda friulana del, questa qui è quella del 79, che ha un bellissimo focolar, che lo stavo cercando, un focolar, anche molto. Poi abbiamo trovato quella foto lì per fare il, come si può dire, il roll up del focolar, e abbiamo trovato quella, che c'è quella signora lì, che lui dice, ma sono me non, ma sembra che assomiglia alle nonne di tutti, perché le nonne erano così, io, mia nonna, tutte e due le nonne, non gli ho visto mai i capelli, non gli ho visto, erano sempre come quella lì, proprio, quella assomiglia. Allora abbiamo adottato la nonna di tutti, infatti quando tu vai a prendere il rollo, ha detto, portati le nonne. Poi c'è Sollanape, anche questo un periodico, e Strolik, Furlan, l'astrologo friulano, diciamo, sono delle cose su tutto. Ecco, io penso di aver finita la presentazione, adesso vi inviterei magari qui a, come si dice, a vedere qualche libro, intanto che, perché so che qui in mezzo ai libri... Oh, oddio, oh. C'è che ne salta fu. E così, beh, dai, no. E così approfittiamo per bere un bicchiere, un vitello di più, se ci sono qualcosa, ecco. Hai seminato un reposo, non so, Calgeia è sempre dotta, Calgeia, bene. Però venga anche altri, anche, non dopo le bottiglie. Ecco, se volete fare qualche domanda, se volete sentire... E qui sono canzoni un po' più allegre, ecco, diciamo. Capisco le migranti, capisco il gol, però chi. Ecco, se volete seguire un po', intanto che tiriamo fuori le sorelle di questa.